incazzati, veramente arrabbiati. Podcast. E quindi a questo punto che vi dico che siamo pronti. Il vostro Mister Brutolicchio, Free Music Archive. Qui su Narra Radio Roma. Ragazzi, noi abbiamo avuto un grosso problema tecnico, cioè nel senso che il nostro Mister se n'è andato via con gli MP3 e la nostra musichetta dentro che noi abbiamo messo. Noi lo abbracciamo per questo e lo ringraziamo. Ma noi siamo capaci di andare avanti anche se Mr. Cocot lo potete trovare esclusivamente su Narra Radio Roma 2. Mr. Cocot Narra Radio Roma 2, perché è lì che sta bene sotto i nostri piedini. Però noi sempre bene li vogliamo, e se non la facciamo con le braccia ma usiamo i nostri piedi, è comunque uguale. Il piede sulla fronte glielo metterei. Ricorda, Coco, devi puntare in alto. Al circo massa. L'altra Radio Roma. Eccoci di nuovo qui sul mondo di un'altra Radio Roma. Qui Mr. Cocot e le vostre orecchie sono pronte per ascoltare una nuova selezione. Questa di oggi in collaborazione con la nostra prima fans, la signorina Francesca Caporilli, vi presenteremo La Provincia che Brucia, perché non solo a Roma i gruppi spaccano, ma anche tutto intorno a Roma c'è qualcosa che brucia. Qui per voi, primo pezzo, ve lo voglio far sentire subito, senza chiacchiere, loro sono The Nosebleed Connection e la loro God the Loser, dal loro demo autoprodotto del 2008, God the Loser. The world is yours. Per voi, The Nosebleed Connection, da Palestrina, provincia di Roma, provincia che brucia, e loro spaccano. Siete pronti? Alzate il volume. Volume. Spaccano. Mamma mia, loro sì che bruciano, loro sì che spaccano, questa è la provincia di Roma. Ricordatevelo, The Nosebleed Connection, da Palestrina. Sempre ripartendo dai Nosebleed Connection e dal chitarrista cantante Gianluca Sacchi, andiamo in un altro mondo, in un altro gruppo, sempre di Palestrina, in cui lo stesso Gianluca Sacchi canta e suona la chitarra. Loro sono Dick Laurent Is Dead e ci andiamo ad ascoltare il pezzo Brainwashing Messiah. Nello scorso aprile hanno terminato la realizzazione del loro primo LP autoprodotto, Educate Your Soul. Le loro influenze musicali sono cupe, malinconiche, d'impatto, e siamo qui per ascoltare questo brano, qui, a Nartra Radio Roma. Alza il volume, che te sto a mannà, che te sto a mannà, che te sto a mannà, che te sto a mannà. La provincia Brucia nasce poco tempo fa tra la collaborazione di Mr. Cocot, The Nartra Radio Roma e la signorina Francesca Caporilli, che disegna, crea, insomma, un artista a 900 gradi. Comunque, l'idea è di fare una cassetta chiamata appunto La Provincia Brucia con lato A e lato B. Il lato A lo state ascoltando in questo istante, il lato B lo ascolterete fra un po' di settimane. Comunque, sul sito di www.nartraradioroma.blogspot.com troverete la cassettina con la copertina da ritagliare, che già è stato un progetto di qualche podcast fa tra Nartra Radio Roma e Radio Pazza. Comunque, prossimo brano che rappresenta al 100% questo progetto è dei Drop Out della provincia di Roma, il pezzo La provincia brucia. La provincia brucia. La provincia brucia. Urla, e la provincia urla. Ciao! far finta di non sentir l'odore, ma la provincia brucia, la provincia brucia. Provincia e brucia in Art Radio Roma continua così. Dopo i Drop Out, prossimo gruppo consigliato dalla signorina Francesca Caporilli, la nostra disegnatrice ufficiale, i Scream of Riggs, progetto che nasce nel 2006 da due anime perdute, Riggs e Gian, a cui si uniscono Mike, detto Wild Fallen Psycharisma, ed il gracile bassista Michele. I Scream of Riggs non seguono nessuno stile nel genere musicale. Loro sono imprevedibili, veloci e psycho. E proprio per questo, perché Nartra Radio Roma è un po' psycho, vi andrò a far ascoltare un pezzo che a Mr. Cogart piace molto. Si chiama Turbo Church Whiskey Shooters. Per voi, Scream of Riggs su Nartra Radio Roma, sulla provincia brucia. Dai, dai, dai, dai, Nartra, Nartra, Radio, Radio, Roma, Roma, Nartra, Nartra, Radio, Radio, Radio, Roma, Nartra, Nartra, Radio, Roma, Roma, Roma, Nartra, Nartra, Nartra, Nartra, Radio, Radio, Radio. Scream, scream, bentornati sulle onde di Nartra Radio Roma. Dopo aver ascoltato i Scream of Riggs dalla provincia di Roma e più esattamente dall'Abico, ci andiamo ad ascoltare un altro gruppo, ma più precisamente questo gruppo è un collettivo di 21 persone. Sì, avete sentito bene, 21 persone che creano il Patchwork Sound, di cui Francesca Caporilli è la disegnatrice ufficiale. Se andate a vedere sul loro MySpace troverete tutti i nomi e quello che fanno nel Patchwork Sound, appunto. Questo collettivo che è nato come gruppo aperto alle più svariate collaborazioni tra musicisti della scena locale tra cave, Olevola Romano, Palestrina. Tutto quello che hanno raccolto attraverso testi, parti musicali, sono un miscuglio di idee, frasi, ritmiche, arpeggi, elettroniche. E dopo un anno e mezzo di sessioni, di registrazioni, esce l'LP di 11 brani, One for All and All for Me, di cui ci andremo ad ascoltare di seguito la traccia numero 2 Moonshine, la traccia numero 4 Money e la traccia numero 10 Levante BJ. I Patchwork Sound ricordano molto a Mr. Cogot le vecchie sonorità degli anni 90, a cui Nartra Radio Roma è molto molto legata. Essendo noi tutti cresciuti con la musica degli anni 90 e specialmente con la musica grunge e con la musica degli Alice in Chains, della musica dei Mudhoney, con la musica dei Soundgarden, dei Temple of Dog, per voi Patchwork Sound direttamente su Nartra Radio Roma. Thank you. can do so much for me. You can move the sea. Shine me, shine me. I've been there just walking along. The trees cover my feelings. I never let the moon shine. I've seen many songs go. stars above will show the way. My skin begins to feel dead as a chill. The moon shines, the road is by. My dreams of life taking form. I sense many sounds go down, and with them my hair starts growing sharp. E così ci siamo fatti una bella scorpacciata dei Patchwork Sound. Loro, appunto, come dicevo, provengono da vari posti della provincia romana, Cave, Olevano Romano, Palestrina. E proprio il gruppo che vi andrò a presentare con la prossima traccia sono di Palestrina. Sono nati nel 2007 e incominciano quasi per gioco a provare le cover dei loro gruppi punk e rock preferiti come Offspring, Blink-182, Sum 41. Ma dopo un po' decidono di proporre del materiale proprio e così nascono i 23 The End. Loro sono Felix, Luca, Spranga, Federico e questa è la loro I Think. Da Palestrina, Palestrina un'altra Radio Roma, solo una direzione, autoproduzione, Credit Commons, un'altra Radio Roma, la cassettina che brucia per voi, 23, The End, quella loro, I think. Place where rieccoci, Nartra Radio Roma e Mr. Cocot sono di nuovo qui per presentarvi nuovi brani, nuovi pezzi, nuove bruciature da provincia di Roma. Loro sono stati 23 The End con la loro I Think. Se volete è anche disponibile il loro primo video semiufficiale con il brano The Distance. Ed ora siamo arrivati alla fine, all'ultimo brano del lato A. Vi voglio lasciare ancora con i Scream of Riggs e la loro Enough is Enough per voi, grezzissimo rock e la cassettina che brucia. E ricordatevi, Roma, Nart Radio Roma, la provincia che brucia. Un ringraziamento a tutti i gruppi, a Francesca Caporilli che ci ha inviato le tracce dei suoi amici. Un ringraziamento a Olevano Romano, a Cave, all'Abbico, a Palestrina, ai Patchwork Sound, ai Nosebleed, a Dick Laurent Is Dead, 23 The End, ai Patchwork e a quanti ancora ne terranno. Sempre, sempre, sempre, sempre, radio, Nartra, radio, Nartra, radio, Nartra, radio, Nartra, radio, Roma, buon viaggio, buon ascolto. Eccoci qua, è pare giusto. Festa di cazzo, sì, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, modico sempre, io sono Remo Remotti da Roma. Eccoci qua, cari amici, fratelli e questa è una radio, è una radio, è una radio ad Ostia. Siamo tutti pazzi e non sentiamo cazzi. Tutti pazzi e non sentiamo cazzi. Che ne pensate? Buongiorno a tutti, cari amici, io sono Remo Remotti e vi parlo da un'altra Radio Roma, già se ne stanno 12, questa è la 13esima, però questa è Ostia e vale doppio.